Antonio Rosè. Oh, tu sei già. Eia, sei anche tu. Eia, sì, non ti stavo riconoscendo. Eia. Sì, sono io, dai. Vabbè, tutto a posto, l'hai aggiustato l'apparato? No, no, sono preso lo schema, ma l'ho messo già in ordine, perché non ho dovuto fare... Non me l'ha fatto in... L'ho portato addirittura a farlo fare tutto intero, no? Invece non c'è riuscito neanche lui, quindi me l'ha fatto in due pezzi e me lo sono dovuto aggiungere poi. Ma che cosa c'ha? Che difetto c'ha? Ah, praticamente dei segmenti del display spenti, un trattino del 2 e uno dello 0, mi sembra, dell'ultima cifra. Sì, hanno certo il difetto lì. Come l'altra volta, quando c'era un Riccardo, mi giravano veloce. Però quello spento, l'ho riacceso e non l'ha più fatto. No, questo come frequenzimetro è a posto, cioè è giusto, non si muove, è stabile, però ha questi trattini spenti, due trattini spenti che comunque ti danno ai nervi. Sì, ma si trovano, io nel Galaxy ce l'avevo spenti e mi ricordo che... come si chiama? Archimede me li aveva sistemati. Lo so, ma quelli del Galaxy sono diversi, quelli dell'S9 sono a tre cifre, ogni blocco è tre cifre, sono praticamente due blocchi da tre, mentre quelli del Galaxy sono un singolo, un numero a un blocco. Ah, ecco. Vabbè, comunque quelli del Galaxy sono ma stabili, perché non ti mandano i pezzi di ricambio. Tornando, avevo lo stesso problema. No, io li ho trovati, solo che mi serviva lo schema per vedere le tensioni, li ho trovati dalla Cina, questa è una stronzata, tanto è vero che me li voglio prendere, sia rossi che blu e che verdi, così stanno messi a capo, diciamo, curori. Carta gatto. Io c'ho lo smitter che è arancione, cioè il blu dopo come lo prendi diventa sul rosso... Però il rosso sole, il colore del sole con l'altra volta. Ah no, il mio invece è blu, va bene, blu quando vanno in trasmissione diventa rosso. Ma è un rosso particolare, non è proprio rosso. È come un arancione. Esatto, sì, è così il mio. Bene, come sto andando? Bene. Segnale? Sì, 9, passo 9, aspetta qua. Vedi un po' che poi ti facciamo un altro passaggio. 9.20, sì, dai. Io sono in campagna, però non sono a casa. Guarda, ti faccio un altro passaggio, già. Vedi un po', così. Prova, 1, 2. È aumentato, 9.28, sì, quasi 9.30. Posso anche fare così. Vedi un po', si aumenta ancora, se non più fuoco. Prova. Vedi? Vedi adesso, 1, 2. Dimmi un po' se la radio va in saturazione. No, è perfetta, la radio è perfetta e aumenta. Questo qui è un amore, questo amplificatore lineare. Che amplificatore? Dammelo a me. Questo è un BV 2001. Esce quasi 800 watt in AM. Cazzo 2001? È il tuo? Sì. È un nome grande. Lo so, questo c'ha quattro valvoloni, la fine di Romondo sono. Proprio bello, esce che ne richiudo, che assorbe anche un sacco di corrente. Ma non c'era un transistor di già? Sì, in 2002, ma non ce la faceva da rifatti che dal 2001 non puoi equiparare una valvola a un transistor. Sì, il BV131 va come 747, stessa potenza. Sì, quello sì, però devi considerare che ai tempi che modulavamo noi, 30 anni fa, avere un alimentatore che ti dava 20 ampere ci voleva una frasca di soldi a comprarlo, e quindi uno preferiva prendersi un lineare 220. Adesso che ci sono queste cinesatte da 15 euro, alle persone non gliene frega più niente di avere un lineare valvolare a 220. Ah, oggi mi sono messo a pulire la ventola del trasformatore, che roba è fastidiosa. Faccio proprio un bel rumore. Un momento si è acceso con l'elicottero acceso, un bel disturbo. L'ho smontato, ho girato tutta la polvere, ho sputato tutta l'aria con la bomboletta. Ho tolto tutta la polvere, poi ho passato anche il pennellino. Proprio tutto fatto bene, l'ho fatto interrato, se no in casa facevo casino. E poi l'ho spruzzato un po' di CRC e poi l'ho messo anche l'olio, quello industriale, quello che usa la zona industriale. Ho capito, sì, tipo l'olio che usano per i fucili, olio, come si chiama, olio già ce l'ho presente. Ho un fiacco, però un olio va, è performante come olio. Non è olio più ricci, l'olio, me l'hanno detto chi me l'ha dato, che lavorava la Sir, me l'ha portato lui. Sì, lo chiamavamo anche noi quando lavoravamo con periodo di sua commerciale. Nemmeno a me, ma già lo so, perché me l'ha detto chi me l'ha detto, me l'ha detto no. E beh, puzzolente, mamma mia i fiacchi. Io infatti molte volte utilizzo olio Singer, quello che si usava una volta per le macchine da cucire, che si usa penso ancora anche adesso. Sì, l'olio Singer. C'aveva la cosa verde, bianca e rossa. Quello guarda, ne metti un goccino, lui esattamente corre. Non sei attento. Però no, ho rimediato il rumore, anche tu. No, tutto pulito, fatto, ma il rumore mi sa che presenta. Ah, vabbè, con gli alimentatori così, comunque sono belli, sono piccoli, però quanto sono rognosi, non per il vento, va. Tu capo di pigliani, Guarda se la senti, la ventola? Sì che la sento già. Vera? Se stai zitto si sente, quando parli uno non ti fa caso. Vabbè, ce la prenderanno così. No, questo qui non è piccolo, è grande l'alimentatore, è da 50 ampere. Vabbè, non lo puoi mettere più, non allontanarlo. Ho provato, ma era la tessigosa, è potente, ha una potenza. Sì, potrei scambiare uno con l'altro, potrei mettere giù uno e l'altro metterlo su, ma tanto ci sono i ripiani, è un ripiano che devi dire, sia sopra che sotto, è la stessa cosa. Chi è avanti? Aspetta che vedi. HP2 ne hai ragione da vendermi in base. Se mi accontenti mi rimuovo i soldi e te lo compro. Con lui, ma è in buone condizioni, no? Di chi si tutti scacciavitati, Scusa, tu. Ehi, ma chi è? HP2. C'è chi riesce invece che parlare. Vabbè, io te l'ho detto, se riesci mi fa la cortesia, se no pazienza. Smettete, è trasportante. No, sono io già, sto provando la radio, ma gente, non so se c'era nessuno qua. Sto parlando HP2 fra, forse non lo sì. Forse per quello non lo sento. Marco, tu ancora ce l'hai quel Cobra? Cosa? Il Cobra ancora ce l'hai? No, negativo, l'ho venduto. Vabbè, ok HP2, dai, vediamo un pochettino se riesci. Ha detto Franco, c'è anche lo riserva, facciamo girare la ruota, dai, avanti Franco. E ciao anche Antonio, ciao anche HP2, anche se non ascolto, mister, lo sento più tio molto basso qua già, io sono a casa dove c'è il Vipolo, quindi le condizioni sono precarie, forse anche la parte di lì. Ciao. Allora, vabbè, anche le mie sono precarie. vabbè, ma giù che la durantenna, adesso quando arriva la piazza. E che antenna è arrivato? La master, uguale alla tua. Davvero? Quella lì ci vuole. Quella non ti dà problemi, fra ricordati del cavo, di metterlo in modo che quando l'antenna piega non si spizzi. Non lo devi mettere tirato, capito? E infatti, 180 euro con spese e spedizione. E io l'ho pagata 170, 10 euro e mezzo. E vabbè, era sto lì a fare antenne, a fare, a me ne è pronta, non faccio altro che piazzarla, capito? Quella è fatta da ingegneri, non è fatta ancora qua. Che Antonio, ciao Antonio, mi senti tu? Ciao Fra, volevo salutare anche a Gianni, se mi ascolta. Ciao Gianni, un abbraccio. A chi Gianni? A Gianni HP2 o a me sei abbracciato? A Gianni HP2, già lo so, a te non ti abbraccio che tu sei pervertito. No, anche perché a me non ce la fai abbracciarmi, con la lunghezza delle braccia tu non ce la fai a prenderti. Ma Antonio, dove sta modulando già? Buona notte a... Niente, tanto ma mi senti a me, Vabbè dai, mi assento, devo fare cosa già, sentiamo dopo. Via. Oggi ma a pescare non ci stai andando? No. Cioè, oggi era bello, oggi c'era un po' di maretta, andava bene. K. Già, c'è una canzone che dice ciampa di rimuta, andiamo tu, ciampa di l'antenna già. Come ci sta arrivando quel dipolo già? Beh, sono tutti quanti bambini. Vicino va bene, ma è lontananza, Non arriva. Quell'antenna che ho preso è un dipolo in verticale, capito, Fra? No, questo l'ho messo a doppia V invertita, ho messo. E vabbè, adesso quando arriva l'antenna ce la piazzo su a vedere. E a metterlo steso non fa? L'ho messo lì. Sì, ma tu hai bruciato più a V invertita. Lo mettevi steso, dritto, in orizzontale. E infatti voglio provarti la smoluzione un po'. E dopo l'ho provato, vanno giù, vanno giù, vanno su. Sì. Ah, ma quando mi arriva l'antenna ci butto l'antenna su, capito, sul tetto. Ma infatti, è l'unica, con l'antenna leggera leggera, non ti dà problemi, né nulla. Basta un palo piccolo, non dà problemi in TV, non dà problemi di nulla. Ma infatti, è leggera, ci metto una di quelle proprio che bene. Un tubo telescopico, al limite un tubo d'acqua, la metto. Infatti, ma regge tranquillamente. Gianni, poi non ti compri la Game Master. Gianni KP2. Poretta, comprati la Game Master come la mia, che va bene. Scusa. Allora, devi prendere la c'è Franco che parcheggio, Franco se n'è andato. E vabbè, bisogna tentarle tutte, se non è una cosa è l'altra, no? Ci devi arrivare prima o poi che cosa sia, perché ogni volta ti dà problemi, ogni volta ti tocca staccare, eccetera. Io avrei già visto tutta la stazione a quest'ora, non una cosa solo, già tutta l'avrei vista. Controllala, controllala. Poi con l'antenna, Gianni, non per disprezzate cose, se tu vai nel furo scrivono tutti, cavolo, che dà problemi quando piove, che aumentano le stazionarie, quando piove l'umidità mi fa aumentare le stazionarie. Oh, te l'ho messo, ti ho rilasciato il microfono già da poco fa e non hai risposto. Cosa stavi combinando? Oh, qua sei più forte, Fra. K. Avanti, Capri 2, Capri 3. K. E quindi cosa mi hai fatto? Rifare il motore? Gianni. Oh. Vedo un po' adesso già. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 3. L'ho messo come hai detto tu adesso, l'ho tirato, l'ho messo dritto, in orizzontale. Ho visto, l'ho detto io che andavo a mia. Capito, lo ascolti a Franco? Ehi, faccio piano. Non è Franco, no, Franco! Franco! Dani da casa, sì! Oh, Franco, California, la Sassari, vabbè, se paghi il pranzo, già vengo, ti faccio compagnia. Ascolto. Ciao Gianni, ci sentiamo dopo e dopo finire di fare cose, dai. Salutamelo a Gianni Capri 2, dai, ci sentiamo più tardi magari. Ciao ciao. Ehi Fra, ti fuggendi, sono appena sei andato, ti sei andato, devo andare su, dai. Ciao ciao Fra. Vai a ritirartene, vai, se no te ne torna più. No, ti faccio girare, non chiuso tutti, anche Franco ha chiesto di salutarmi. No, l'avevo dato, quello lì l'avevo dato la persona e se l'ha sistemato lui, ha cambiato la scheda. Chi è? Chi è? L'amico mio, quello che voleva vedere la radio. L'amico mio è entrato, ma stasera me la porti. Se me la porti ti porti su, dimmi. C'ho anche il microfono originale del Galaxy. E ho il microfono originale del Galaxy. Esce bene come se fosse amplificato. E a Capri 2 è entrato anche il 5, non so se lo ascolti. Avanti 5, lo ascolti a Capri 2. Oh, cambio. Ehi, ehi. Un attimo, ciao Eugenio. Gico ha detto che se sei quello vecchio di una volta gli rispondo io, sì è lui, Capri 2, è lui. Avanti Eugenio, avanti Eugenio, avanti Eugenio. Ciao ciao, buonasera a tutti, buonasera, allora, che dice? Ti piace il mio nuovo ecco. Che si dice Eugenio? Le solite cose si dicono. Siamo in radio, stiamo facendo quattro chiacchiere con Capri 2, Ginko, non so se lo ascolti. E niente, stiamo facendo quattro chiacchiere. Buonasera a te. E te ricordo, Serginia, dove sei? Thank you. aspetta, no? Già va bene, anch'io sto facendo un po' di allenamento, adesso è venuto anche il fisioterapista, sto facendo fisioterapia allo stesso tempo allenamento. E una camminata veloce, dai, un po' veloce con il cane, mi porto il cane e faccio dei passi veloci, dai, piano piano, perché non è che puoi correre tutto in una volta, piano piano. Sta facendo diverse posizioni, mi sta facendo flettere la gamba in diverse posizioni, mi fa fare la camminata per vedere come cammino, le scale, tutte queste cose. No, dall'altro me l'hanno mandata, in ritardo, ma già me l'hanno mandata, dopo che l'avevo fatta io la fisioterapia, infatti se ne è accorto che non sono stato fermo, mi ha detto bravo, ha fatto la cosa ben fatta. La vedo che è molto slegato, certi movimenti sono un po' lenti, però quasi tutto è riuscito a sbloccarlo. Sì, se stavo bene mi piace a fare l'acca di legno. Me l'hanno fatto 3 giorni fa, non ti credere che 3 giorni fa, da febbraio che sono stato operato. Sì, è vero, la bicicletta ti fa girare tutta la gamba, è vero. Sì che c'è Capri 2 da muro, se lo sì. Capri 2 e Capri 1. Ciao, ma dove te lo scarica? In casa il motore. Ciao Capri 2, ciao, avanti chi chiama. Ciao RG, ciao, ci sentiamo, dai. Roba veloce, avanti chi è rimasto? Nessuno? Allora stasera me lo porti questa cosa. Ah, io cosa te ne va di due. E a me stasera è venuto a portarmi il telefono, che me ne gaggio di macchina giro di 20 anni fa, così che hanno il telefono. Oh, yeah, che cavo. No, non è caduto dalla tasca, è andato in mezzo ai sedili, capito? Non l'ho trovato. Poi sono attaccato, tanto sicuramente non me l'ho messo in tasca, l'ho lasciato a casa. Invece sono tornato a casa, ho fatto il numero di telefono con il numero fisso e non rispondeva da nessuna parte. Dopo circa 20 minuti che l'ho chiamato, ha risposto Torino. Ha detto, cazzo, questo telefono, cazzo, non so come ti si ripundia, era più risolenti. E io, vabbè. Tanto non poteva entrare nessuno perché c'è il codice, quindi se anche se lo trovava altra gente si attaccavano. Però mi dispiaceva, cazzo, il telefono nuovo. Huawei. Sì, 10 Lite. Bello questo telefono, mi piace. Io l'ho cambiato già la batteria però, E come fa a funzionare? Se non c'è batteria, ce l'ha, però devi essere un tecnico per cambiarla, perché vuole scollato, a me me l'ha fatto Luca Manicomio. Vuole saputo fare, bisogna avere manualità per farli. Non è che siano come gli altri che aprivi lo sportellino e togli la batteria, non è così. Questo qui ce l'ha incorporata, bisogna scollare la parte di davanti piano piano, senza rompere nulla, senza rompere il vetrino, né nulla, toglierlo e rimettere quella nuova. Sì, Polina sta facendo la pennichella a quest'ora. Che ti veglia? Non mi dica, cos'è la legge di buco? Ma non bello cresciuto ti ha fatto accusare? Cosa? Il pelo nelle orecchie cresciuto ti è? No, non ne ho per le orecchie io. A furia di ascoltarmi, non hai compreso? Sei sempre acceso il baracchino, sto con bisogno di ascolto. Oia. Non l'ho visto ancora, la stessa leva se vede vendere a me, qual è il tuo? C'è chi te la deve dare? Con la mitra mi pare che devi vendere, così. Ma te la deve dare, ma lo vuoi? No, tu! Io non ne ho io compro solo. Quello che vedi chat! Io compro solo. Compri solo, vabbè, me la tolte. Io compro, vendo, scambio. Sì, venduto, tutto venduto. 350. Non è che stai a pensarci, no? Quando viene le cose non vedo a 20. Caraga. E cosa hai venduto già? Sì, l'ho ancora 8.000. Bravo, vedi tutto. Caraga. E tanto in casa prende splatter con lui. 5.000. Ascolta, sono le 8 a prendertemi. Sì, perché Gianni deve portare a casa scrivi a passeggio prima. E se voi volete scendere prima, non decidere prima, poi passate. Dai, lo vediamo in azione. Oi. Certo, mica bisogna dare presto, là, che cavolo. No, ma infatti, non fa. Non fa presto. Oh, un attimino di samba che dopo dalla partita. Sì, ma sempre verso le 9:30-10 quei posti. Non si va presto, se no fai la figura di un gozzo, lui. È più tu biondo. Ma eccolo, puoi staccare 5-5-5. Ehi, non volevo sentire senza ecco, non peraltro. Fammelo sentire senza ecco. Ah, va bene, sì. No, già va bene. Già è bella forte. Anche con che ecco però va bene. Stazione nuova. E io Tony, se ce la fai giustare, quello tuo lo dai a me 50 io. Non anticipo. Comunque il pezzo di altro fatto lo deve aggiustare, adesso lo aggiusta e esce meglio del tuo. Fa un lavoretto, un paio di giri, di cosa, e via, di cacciavite. E ritorna come prima. Ehi, la manopola quasi schifo qui. E poi che ero zitta. Mezzo bianca, mezzo nera e mezzo cromata. Ci voleva la vernice di plastica. Cacchi due per la rimbussata lì due. Sta gridando, capito? Pagando mai, grazie sempre a rompere le scatole. E lo sai chi è? Quello lì vicino a casa tua, quello che ti ho detto. Lì tu chi virà? Roma? Ti ho aggiunto te. Sono contento per te. Aiuto. Per carità. Tonino, dove stai andando? Dove stai andando? Tu. Sparite tu. Dimmi come si chiama quella parte e vado a cercarlo. Fedele nel 50 su internet. Non sai che cosa, quello che sono drogato io che devo prendere. Ehi, a parte che c'è tu, come si chiama quello? Non il cacchio si chiama, vaffanapo. Cos'è il Intec? Il babbazzolo, Intec? Come te chiama? Cos'è il mio? E cioè di cosa stai parlando? È il baracchino. E il mio non è Intec, certo, il mio è un Intec con S4000. Ah, e cos'è Intec quello lì? Non è tedesco? 8000. Oh. Ma se non è un gemello come ce l'hai tu? Oh, che fosse Intec? Ho visto la marca strana, boh. E quindi mi stai andando fuori, mi stai andando. E comunque tu se me lo dai io faccio la coppiata vincente. Accidenti. Boia, boh. Dimmi dove abita tu lì che vado e lo prendo. Ti porto subito. Cigomi, Manuel, dai, facciamo l'affare. Ti do il veicolare, mi dai quello lì. E il mio è un Connex. E il mio è modificato. Dai, ti aggiungo anche una supposta. Ecco già, una supposta voglio aggiungere. E che non ce n'è. Se non c'hai la carta di credito non te la mando, ho capito? Io carta di credito non immongo su internet. Oh. No, che ti butti lì. A me voi gli hanno rubato 200 euro. Contrassegno e bu. Mi hanno fregato. Contrassegno e bu. Sì, non li mandi più nessuno, contrassegno. Lui, solo qualche ditta, sporadicamente, così lo fa. Proprio, e quando gli ho chiesto per l'antenna, non è che ne facciamo lui il contrassegno, ma vabbè, gliela posso mandare, però mi raccomando, ritiratela, perché quasi sempre quando le mando in Sardegna le cose non le ritira. Ma se lo chiede c'è uno che riceve l'antenna che ragionamenti. Non so, ma c'è gente che l'hanno fregato, dice mi sono dovuto pagare spese di spedizione e tutto, invece una volta che tu paghi incontrati con la carta posto un pelo lo c'hanno già i soldi. Ma so che cos'è la tua ordinare? C'erano gli apparati uguali a quello tuo e a quello di Ginko, c'erano in vendita. Ce n'è uno 100 euro, l'altro 104 euro, non è che costano il macco chissà la. Sì, ma se pare il certificato a voi non le vale la pena. Con le spese di spedizione ti viene 124 euro. Guarda, allora Galaxy pesa molto più di quello lì mio, oh già. Ma spese di spedizione ti fanno pagare tutti così sulle 20 euro. 19 euro ho preso io. Ma ci giostano, ho capito. Dicono che pagano di più e poi si ritengono loro i soldi. Ma io sono già contato a spendere, capito? Quanto pensare la frase qui. Ah, già lo so, sono i gnurri loro, capito? Dicono che spendono 80, detto c'è gente che mette 30 euro di spese di spedizione. No? se non si è mai visto. Se mandi un microfono, sono siero di spedizione, capito? Sì, 8 euro, ma massimo 12, però di più. Ma se non trovo col bonifico bancario, me lo guido. Vabbè. Paolo, allora, facciamo questo affare. Cosa c'ho io? Le placche angolari. Quale placche? Non ho capito, no? Le placche. Ah, gli angoli d'acciaio, e beh? Scappa. Tanto era preso, perché non mi ha letto manco se mi danno 1.000 euro. Se mi posso stare sopra, mangiamo gelato e boh. Mi sta ascoltando, mi sta ascoltando. E questa parte si fa nasina, si fa. Questa che c'è stato adesso. Tu non eri manco uno sul microfono originale. Però se vuoi il microfono originale della Galaxy, questo che sto usando io adesso, mi dai il baracchino. Se vuoi il microfono originale della Galaxy, questo che sto usando io adesso, mi dai il baracchino. E cosa mi aggiungi dopo? Mesi matti già. Aspetta che l'ho trovato. Oh. Ehi, radio zero proprio sì, cosa stai dicendo? Stai bruciando tutto, stai bruciando tutto. Guarda il macchinino, guarda il macchinino si è alzato. Oh, radio zero, bu. Radio zero lo sta trasmettendo, adesso la gente è cattata. Stai baracchino che vuoi tu, sei incendiato tutto. Bruciato, se mi dovevo col sushi. Ma non è, rimetti come era prima la tua palazzo. Ma non è, ci sei. Manuele! Aspetta! Manuele, ci si! Sta facendo un passo basso, guarda il Mike Green, si è alzato al massimo! Lampa di tutto! Non lo voglio più! Ha preso poco! Ma com'è che te l'ho giubilato? Manuele, ti ho detto quella persona! Porta che te lo modifico! Prima o poi brucia tutto! Bruciato! Scalda troppo e brucia tutto! È sopra alimentato, capito? Ma poi l'alimentatore perde la sua cosa in parte a 20, 22 volte e ti brucia tutti i componenti. È un difetto di quell'apparato, l'ho letto in diversi furo. Avanti, vai via. Che ha visto adesso. No, non l'ha toccato, non è che quell'apparato lì. Questo difetto, guardi, c'è un alimentatore che non ce la fa, capito? Scalda un bel e poi brucia tutti i componenti. Scalda e parte da 12 volts e va a finire a 20 volts. Questo alimentatore, dico il bus. Non sono niente, ma lì c'è il lo stabilizzatore che deve avere problemi, un integrato, se poi c'è un tutto, mi dovrei che alimentatore. Però che convenzione, almeno così da lavora fusato. No, no, ci vuole uno switch di all'interno, è fatto io. No, ma chi è arrivato? È un baracchino, non è una radio. È un baracchino da base, è l'Intec 497, non so se lo conosci. No, è alimentato, dentro contenuto è l'alimentatore. Cappa. Ho capito, forse l'avevo scritto. Un'altra cosa comunque. Vabbè, lascio tutti così, no? Quello c'ha un po' di difetto, infatti una persona gli ha detto che era meglio fare un attacco all'esterno e mettere un alimentatore esterno, oppure un alimentatore dentro il contenuto, un switch che è piccolo, che da 25 va bene. Guarda, hai visto anche, siccome c'è anche una protezione, quando va più di 13,8 si blocca, quindi anche con quello può risolvere il problema, però il problema non è quello lì, no. Il problema è capire che cosa c'è, perché sicuramente c'è qualche componente difettoso, poi c'è anche il condensatore, boati, capito, quindi è meglio insomma, farlo controllare, se è nato così deve funzionare per forza. Ma è nato con questo difetto, come le macchine, no? A me da Opel mi hanno chiamato, quando ho preso la macchina, mi hanno chiamato che tutte le macchine Opel stavano prendendo fuoco, cazzo, perché non ci avevano la triccia di massa, non so che cosa, e a due o tre al rifornitore hanno rifornito la nebbia di buco di macchine, quindi al più presto di portarla che mettevano questa massa, non so che cosa, gliel'ho portata, l'hanno messa gratis. Qualcosa, se è in garanzia, se rientra nei suoi danni, cioè nei suoi edifici, per fatto te lo devo fare gratis. Lo so, sì, ma hai visto, è passato il coronavirus e sono passati tutti. Non so, forse il virus è appiccicato per i niente. Cosa ne so? No, ma era risaputo una cosa del genere, capito? E passava e tutti a casa, forse. Cioè, tutti alla folla, in modo di dire, là. Poi, hai visto, un periodo era il boom. Lo so. Addirittura hanno spolverato apparecchi, hanno riattivato, aggiustato, fatto. Poi, perché si prevedeva che fosse una cosa più lunga, per fortuna, diciamo, almeno qua si sta rallentato. In certi paesi, certo, tipo la Russia, l'America, e chi vive il boom ancora dell'epidemia? Ma non è? Non so se è epidemia o un'epidemia o se è, ancora non si è capito niente, si dice una cosa e si dice un'altra. Vabbè, ma dico, tutta la gente è di cacciata, la usa baracchini, radio, sigaretti, e insomma, più lunghi hanno e più ne metto. E poi dico, vabbè, c'è stata una cosa fastidiosa, ma poi c'è stato il conto. Vabbè, capito, così è. Oh, ciao, questo baracchino, magari, era 4 watt, bella salutata. Devo ricordarmi di cambiare il finale e capire qual è il finale di, vabbè, che si può adattare. Vai mettere qualche watt in più. Qualche consiglio da un centinaio di watt, no, di un po' di barosa. Allora, vabbè, va, posso anche arrivare a casa. Che apparecchio è? Sono le stesse. E c'ha la stessa scheda del 3009 che c'ho io. Del 3009. Sì. Stessa scheda, mi sa. Più o meno, sì. Diciamo, non questo mi pare, il 39 non lo so quanti volte da, ma questo non è 4. Manca 5 arriva, cammi, pensa un po'. Anche questo è così, omologato, anche il mio è omologato, anzi. Io l'ho abbassato anche di più. 3,5 con picchi di modulazione a 4. Questo, se no a me me ne serve 10 per sbloccare un lineare, capito? Perché così mi dà un 100-130 watt. Se la porta di più watt è l'altra 100, capito? In AM. Ma se tu ne dai di meno di 4, te lo pilota bene. Infatti non lo vedi, la radio è ottima, buona, recuaro, non ha problemi di saturazione, non ha problemi di niente. No, è limpida. Sì, lo so, se lo tutti al 50% è normale che la radio è perfetta. 9,5 sta arrivando qua. Sono 70-80, al massimo 90 watt di picco. Che cosa stai usando come lineare? Adesso, non c'è tipo, il tipo 107, 507, è un, vabbè, la base l'ho solo inventata. Ah, capito. Va a volare? Ah, per sensorizzare. No, il transito, a 28 volte questo lavorava, il MRF 422, era, questo l'avevo preso quando ero piccolino, ma tanti anni fa. E poi l'avevo venduto a un tipo, l'avevo tenuto e mi ha bruciato. E adesso è questi giorni di, insomma, mi relaxo, ho aspettato finali di un mese. Ah, e te lo stai usando tu, dai? Vabbè, finché non lo capisco. Infatti quando metto una radio che ha tipo Tesla, ne ho un'altra che ha 7 watt e già rilascio 80 watt, capisco. Però in base alla laterale si dà un bel, perché ha 10 watt di picco, cioè di picco, anche il modulato mi dà, quindi lo vedo che si molto meglio. Vabbè, 300 watt non li dà, ne dà 250 al massimo, è un 500 in banda, e non sono male comunque. Ginko, ci sei? Ginko, ci sei? Ginko? Se lo così basta. Torino ci sei? Se sei tu, Torino stai uscendo. Beh raga, io vi lascio, va. Devo andare dalla dottoressa, se no non vi lavo tu manco oggi. Ciao. Ciao Vanni, ciao Pino Tramici, sono all'ascolto, ciao ciao. Che è partita qualche cosa, stai scendendo un bel basso. Oh boh, appena acquistato, quindi non è tornato. Oi oi oi oi oi oi, Roberto Roberto. Anche ma quello è normale. Vabbè, se ti interessa fammi sapere che ce l'ho. È normale, praticamente è normale, però modificato, capito? Esce una bomba, disobbedente che esce una bomba. È un apparecchio che io in casa non posso più tenere, prima ce l'avevo in macchina quando viaggiavo a Porto Torres, adesso non lavoro più, quindi non me ne porto più nulla in casa. Sì, sì, finito. Finito. Pensione, pensione già. Ancora no, però c'ho buone prospettive di andare, dai. In pensione, mi pare che da dicembre in pensione. Sì, sì, in pensione, lui aveva lavorato da prima in altri posti, quindi è andato in pensione prima di me, a me me ne mancano 2 anni, però siccome ho avuto dei problemi di salute, niente, mi sono bloccato, dai, mi ha bloccato veramente il medico del lavoro, mi ha detto che non ero più idoneo a guidare, eccetera, eccetera, e quindi non ho potuto fare più nulla. Ero in pescheria, poi anche in pescheria non ce la facevo più, mi hanno operato e quindi adesso sono così. Sono stato operato al femore perché mi si è consumato il femore a furia di fare sforzi, tirando pedane, facendo, già lo grido. Sì, sì, furgone, camion, di tutto. Tutto carico, a stintino, con 10 pedane di roba. E già non sei meglio di me, là. Già è un lavoro che fai anche tu. Già lo grido. Noi tutta a mano, il trasparente elettrico si affarravano per prenderlo da noi, perché ce n'era uno solo. Poi ne hanno comprato un altro e ce n'erano 2. Prima si usava sempre quella a mano, pedale di acqua che tira da mano, già che tu bisogni. Ehi, già, ma conclusione, scusate un attimo. Oh già. Chi è? Gianni Gianni. Stavo dicendo, conclusione, quando il medico ti dice che non sei idoneo a guidare, conclusione. Conclusione, praticamente io sono stato in malattia, mi hanno operato al femore e poi praticamente ho fatto della malattia, tutta la malattia, tutte le ferie, tutti i permessi e non c'avevo più nulla e mi hanno mandato, diciamo, tipo lettera di licenziamento, ma non è lettera di licenziamento, è una, diciamo, mi hanno scritto che il medico del lavoro aveva appurato che non ero in grado di fare altri lavori, malgrado la mia professionalità non potevo fare manco uno inferiore, perché ho fatto quello in pescheria, mi hanno messo in pescheria a lavorare e mi faceva male la gamba, non ce la facevo più. È una cosa proprio che non ce la facevo più io anche. Ehi, già, ma cazzo, ma che per 2 anni cosa fanno? Non ti accompagnano alla pensione? Non c'è quel cazzo d'Aspes, non venuta? No, diciamo che io ho l'invalidità 80%, quindi percepisco già una mini pensione. Allora sì, dai, pensavo un figlio. Quindi posso campare, dai, con i soldi che mi danno da lì, campo, però non è mai come quando stai lavorando. Quando stavo lavorando prendevo un sacco di soldi. Tra stipendio e pensione prendevo un sacco di soldi, però adesso, vabbè. Adesso tiriamo un po' avanti, mi devono pagare la liquidazione e me la daranno mensilmente sicuramente. Ah, ho capito. Vabbè, ma questi 2 anni che mancano, li copri? Li copro con la liquidazione, capito? Con la liquidazione. Insomma, devi pagare le busciacchere, no? Non vi sembra. Purtroppo sì. La liquidazione se ne vola così, capito? Non puoi conservare nulla. Dai, far riprendere il collega che sono entrato perché la situazione mi tocca anche a me, non peraltro, tutti autisti, no? Io praticamente, vabbè, oltre a quello c'ho anche diabete, c'ho altri cazzi, però diciamo che bene o male sto tirando avanti. Avanti, Stefano, avanti. Già ti copio, tranquillo, non so se mi ascolti tu. 7351, dai, a te famiglia. Ciao, ciao, ci sentiamo, Ste. Chi è? Avanti. con l'apparecchio che rimizzo, vai, te lo dico, vai, perché tanto devo darti due segnali in più con questo. Allora, 6:30, facciamo 8, 9, 5, sì, dai. No, negativo. Se no pazienza, cosa devo fare già? Purtroppo io così in queste condizioni non posso più lavorare, io ho una protesi nella gamba, adesso anche l'altra dovrà essere operata, non dico adesso, ma fra un po', perché ho l'oxantrosi anche all'altra gamba. Quindi non sono in condizione di poter lavorare con la protesi, che poi la consumi in due giorni se fai sforzo. Allora ci sentiamo, stammi bene, non so se sia rimasto qualcuno. Avanti Gianni, ci sei? Ehi, sono di rientro, io sono arrivato a Vesti Sparo, quindi siamo già a casa, ma a casa non è andata di vera cosa ancora. Come mi ascolti con questo apparecchio già, che ho cambiato apparecchio? Ma è bello, bello chiaro, l'altro giorno però mi piaceva di più quella... Il Magnum? Sì, di voce più corposa, anche se ho modificato il microfono, ma già se lo tira la... come si chiama? L'eco che c'è all'interno, le schede. Sì, sì, è molto corposa, mi hanno registrato, mi hanno fatto ascoltare la registrazione. Mi piace molto anche a me quella del Magnum, sì, sì, è molto bella la radio. Io non avrei dato quello, mi dispiace, avrei dato gli altri, ma quello no, è troppo perfetto. C'erano tutti nubi, cazzo, non ne ho uno, sono tutti quanti immacolati, sto dando l'Alan 48, quello modificato, quello fatto da Sabattino, se interessa a qualcuno 350 euro, se non vuole qualcuno, se no rimane a casa. No, mi sta creando problemi il presidente con lo Garner, vedo che trae la manetta nella televisione di quella di sopra, a fianco, diciamo, palazzo a fianco, là. Cosa che invece può essere che con l'ICOM e l'SM8 non risolvono i fastidio, può essere. Può essere sì, magari se quello là è tirato, quel president, ma l'hai tirato come apparecchio. Tirato come? È modificato. No, originale, no, nulla, però il Turner, cazzo, spara troppo, addirittura è stata tolta la capsula e pusha un'altra ceramica più forte, la voce già un po' ho modificato tutto, e c'è una differenza enorme lì, da un Turner all'altro, provato, è molto più forte, che sia chissà che magari sta dando spurie e casini. Stanno a me se non te ne fai nulla. No, cazzo, che troppo vedo. Cazzo del presidente cosa, sì? La caffè mi si invia per giocarmi a cucinare, la roba. Sempre decende cosa, già. Allora, bisogna arrastrare sempre. Ma te lo compri, mio Royce, 250 euro. No, assolutamente. Regalo non lo regalo. Ciao, Dischè. Ascolta a me, prima di chiudere, che sto già entrando in deposito. Il rivalo torna la mano a terra. Pasquali. Le misure, c'è scritto, c'ho il foglio io, no? Guarda, ci ho messo tutto, va giù un foglio. 6,69 metri, se non sbaglio, ma non volevo misurare la lunghezza dell'antenna. Alla fine del piantone, dal primo innesto devi misurare. Come dal primo innesto? Da dove parte tu? doppio, dall'alluminio all'alluminio, tipo. Allora, il vitro lo attacca la spirale, lì c'è l'isolatore, da quell'isolatore fino alla punta devi misurare. Ah, quindi dal rifletto in su non c'entra niente il pezzo di sotto, resina e il pezzo di sotto, no? No, quello non c'entra niente. Allora basta, lì ho sbagliato qualcosa io di lì, no? A chi la ci può? Cioè io senz'altro qualche innesto l'ho portato più indietro, capito? No, no, no, la misura devi rispettare, se no ti fai troppo casino già. Mi ha telefonato Claudio Antonello, sono in contatto con loro che le serve della roba, radio, nel senso radio, e sto cercando qualcosa per loro. C'è un 440 in vendita a Sassari che mi lo sto consegnando adesso perché gli ho cambiato la lampadina dello Smith, che è un casino cambiarla quella. E lo sto consegnando adesso e vengono a ritirarsi, lo stanno vendendo. Però quello non lo vuole, vuole una radio più grossa, capito? Non ha male, hai cazzo di buone dice 440. Completo col microfono da tavolo 450, ma è, come ti posso dire, la vetrina, nuovo. È un bel apparato, cavolo. No, no, a me non mi serve, mi piace, se no però ce lo vedo prima, perché mi devo. Oh Gianni, ehi. Ma quel microfono, quel tavolo, di chi era? Di Giampaolo Silvestro? Non me lo ricordo, mi piace troppi anni, cazzo. No, no, ce l'ho io. Originale, grigio. Il grigio, non è il nero, è il grigio. No, Gianni, doppio. Quello di Giampaolo era nero, ce l'ho io. Tane più 3B, quello ce l'ho io. Ah, cappagà. No, ho pensato che fosse di Giampaolo. Avevo capito, Giampaolo ha fatto l'attito modificato, boh, non so, ma che non era Giampaolo Silvestro allora. Sono quasi tutti Ducati, non ti preoccupare. Avevamo il vizio di toglierne il pezzo di punta, hai visto che c'è quella capsula con l'alluminio in carta stagnola, Buganile e mettergli l'altra ceramica diversa, ed è superiore. Ma del Turner, del Turner o dell'MVP5? Turner. Anche del Turner si può fare, Gianni, anche del Turner, quello che ci è fatto così, la capsula è sempre di quelle tonde verdi, e ci manca la retina, sono tre retine e ce n'è una solo, capito? E spinge di più, quello ce l'ho io già, quello di Giampaolo, quello nero, però quello è un Turner più 3B, capito? È quello nero. L'altro, quello grigio, è quello tuo. Io ce l'avevo anche quello grigio, però l'avevo dato a Gavino Joker, non so che fine abbia fatto, non so, vabbè. Comunque niente, no, sta cercando qualcosa di più grosso, tipo quello, non so, Ico, Maya Esu, roba grossa vuole, capito Claudio? Antonello già non gliene frega niente, ma Claudio vuole roba più grossa, capito già. Ascolta, domanda, ma te sono sempre quel baracchino che avevo, che ti ha preso un po', è quello mio, non l'ha ancora troppo steso. Ehi, però sta scendendo basso, ti ripeto, io che faccio due anche finali, qualcosa è partita qua. Sì, quasi 9 qua, non so che cosa intendi tu per partire, se fate un finale e tirate un watt e mezzo, non penso del 9 e mezzo sarà di. Sto scendendo un watt e mezzo, ho misurato, con TM1000, un watt e mezzo fruscè, è partito qualche finale qua. Che strano, vabbè, ok. Va bene, KK, riprendi doppio lupo. Mimì, Gianni Capigu ci sta chiamando. Sì, avanti Gianni. Sì Gianni, il tuo segnale 9 più 20 radio 5, c'hai un leggero innesco piccolo, però non è fastidioso sicuramente dal microfono, però il segnale è il tuo 9 più 20. Figlia No, no, non toccare niente, lascia tutto così che stai andando perfettamente bene. Ok, dai, il cambio per Gianni Dischetto prima che chiuda, vai già. No, sono in mano, sono anche lei, Locra. Saluto a tutti, dai, che sono metto a deposito. Ciao, un abbraccio, già alle prossime, salutami Antonella Claudio, se li vedi. Avanti, doppio rum. Ciao Gianni, ciao, buona serata, dai, buona continuazione. Ci ha invito a Alessandro. Ehi, buona doccia allora, ciao, le prosci. Gianni, mi stai immaginando come sei bello. Profumati la cogliuppa. Ah. Prendiamo un'occhiata al catalogo, così non sbagli. Frank, avanti. Ah, mi sentite? Sì. Sì, ti sentiamo. Anche tu sì. Signor, sì, anche tu sei diventato. Sono 3 ore, break. Se ce l'ha già mica più due, ma mi senti, se non fini più. No, io sto facendo il break, se non passate l'altro già lo stesso già. Cappa, ci stava raccontando del suo nudismo prima di fare la doccia. Vabbè, quella della frase, ti è piaciuta la doccia, si ripuglia, fai forza. Infatti, stavo facendo il servizio in diretta. Bene, ciao Claudio, ben ascoltato, mi senti? Sì, ti sento, con questa radio già ti sento, questa non è la mia, di Massimiliano, passerò a prendersela dopo. Ascolta, ma dove avete un rapporto di segnale? Guarda, se questa è precisa come quella che c'avevo io, sì, 9 è spaccato. Aspetta che faccio un passaggio, vedi un po' adesso, ho aumentato qualche cosa. 9 più 10. Vabbè, dai, qualcosa. Bene, grazie. Ma in campagna c'è? Certamente. Ecco. Ascolta, ti risulta l'Intec 497 che abbia dei difetti di alimentazione? No, non ne ho mai sentito. Al base? Sì, al base. Sì, l'ho avuto io. Non è come il Galaxy, ma comunque ronda, a volte ronda. No, addirittura nei forum dicono che praticamente succede questo, che l'alimentatore non ce la fa, specialmente in banda laterale, cosa non ce la fa l'alimentatore che c'è dentro il contenuto, e si sballa, e molla, borsa, tutta la taglia, alla fine brucia componenti. Da 12 va a 20, parte a 20 di colpo e brucia il componente quando c'è. No, non è un ottimo vintage, questo te lo posso dire, io l'ho avuto ma l'avevo ottenuto poco e poi l'avevo venduto. E l'ho dato appoggiami. Una Gianni KP2 l'ho dato. Gianni KP2. Aveva qualche difetto, ho detto se lo metteva a posto, non so se l'avevo messo a posto. C'era Gianni KP2 quella radio, gliel'ho data io. Non è un ottimo vintage, Ma c'è molta plastica, Come ricezione Roberto mi stava dicendo che è molto buono, però come trasmissione mi pare che ha filo da torcere, dare filo da torcere gli altri apparati in base anche di quelli vecchia. E infatti non è proprio un vintage comunque. Sì, forse non è un vintage, io era già da 2 anni sul radio. Ce l'ho avuto io, c'era anche Roberto. Io l'ho regalato, non ho avuto niente in cambio. Perché c'era qualche difettuccio, quando gli ho dato tutti quei vintage, ho detto portati via anche questo e te lo metti a posto. No, già è vintage a tutti i dì. Era 1 anno sul radio. Che cosa da fastidio, cosa può, guarda, ci sono quei Polmar, Zodiac, base, tipo quello che ho io, vabbè lasciamo perdere Royce, cosa ti posso dire, tantissimi altri che le fanno il culo a Tana di Grillo con la radio in trasmissione, si viene già, a me non mi piaceva manco coltarne più 3, figurati. No, la ricezione dice che è, più, che è meglio del 140. E vabbè, quello che dice Roberto è quello che dice un carrozziere, capito? lo lascia perdere. Posso dirti tranquillamente che dal 1987 che uso i cable 2 in ricezione non li batte nessuno.